Riflessioni da Marte. Mentre vari umani si ostinano a cercare acqua qui su Marte, senza chiedersi però se ci sia vino su Venere, da quassù da Marte è ben più interessante, diciamo, invece puntare come sempre il telescopio sul globo terracqueo, diciamo che ci scrutiamo a vicenda da un pianeta all'altro con curiosity. Ma sulla Terra vi sono ben altri spunti, e in specie su territorio italico, dove, colmo della iattura e comicamente fuori misura, non c'è più posto neanche per gli eroi, a parte il comandante Schettino, che dice di aver evitato il peggio grazie alla mano di Dio che ha sentito sulla sua fulgida capoccia, e nemmeno i supereroi di carta sopravvivono più per dare, che so, un po' di speranza, un po' di evasione che non sia solo quella fiscale. Prendete Batman. Egli era un supereroe dall'effigie longilinea e notevolmente muscolosa, non per fare erbullo, ma per combattere implacabilmente il crimine e far trionfare, quindi, la giustizia. Ricco, molto ricco di suo, senza però dare troppo peso ai dobloni, senza bisogno e vocazione di razziare soldi pubblici per comprarsi case di lusso, privilegi inarrivabili, vacanze lunari, divorando ostriche e code alla vaccinara innaffiate da fiumi di champagne. Per brindare a un incontro. E ora invece, dopo il polverone Polverini, il mito crolla miseramente e si scopre che Batman è in realtà un signore imbalsito anzitempo e fiorito, che, famelico come non mai, si nutre di lussuosi banchetti greco-romani e di cospicue quantità di denaro pubblico, al quale Batman, insieme a vari compari, sta a cuore più che il trionfo della giustizia, il tripudio delle sue tasche, e che, più che pronto a intervenire là dove c'è bisogno, è pronto a esaudire ogni suo bisogno a spese altrui. Insomma, un Batman che di questi tempi alquanto dozzinali diventa Air Batman, e che alla sobria maschera da pipistrello preferisce quella da porcello. E pensate che deve essere così poco gradevole stare nelle vicinanze di buona parte della classe politica italica, che per lavorare al Senato poliziotti, carabinieri, pompieri, postini, bancari prendono, oltre allo stipendio, un'indennità detta indennità di palazzo, che può arrivare sino a 2.500 euro oltre al loro stipendio. Altro che poliziotti che fanno servizio in strada contro la criminalità nel palazzo, al Senato. Deve essere ben peggio se hanno diritto a questa indennità. E ancora, forse non basta per campà stipendio e indennità, dal momento che il direttore delle poste del Senato, per arrotondare ulteriormente, spacciava, si è scoperto in questi giorni, polverina bianca. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono potenti e gli va bene quello che fanno, e tutto gli appartiene.